guarda, la faccenda sarebbe comica se non fosse molto deprimente, almeno dal mio punto di vista. Cioè, è una vicenda che è nata male, d'altra parte non è che da Calciopoli potessimo attenderci frutti copiosi e gratificanti, però è nata male con quella fretta di assegnare uno scudetto che io, senza entrare nel merito, proprio non avrei assegnato. Mi sembrava il caso tipico di non assegnazione, se mai ce n'è uno, perché la vicenda era chiaramente irregolare nella sua generalità, ma era troppo presto per arrivare, e forse non ci arriveremo mai, a una identificazione delle responsabilità e dei vari gradi di responsabilità. Purtroppo, come sempre da noi, prevale l'uovo oggi sulla gallina domani. L'uovo era non perdere un posto in Europa, e abbiamo preferito perdere la faccia piuttosto che un posto in Europa, decidendo a tamburo battente. Da lì è nato poi tutto il resto. Io non voglio sapere neanche chi abbia ragione, perché sono convinto che non l'abbia nessuno. Già il ragionamento di chi pretende qualcosa è che in fondo lo facevano anche gli altri, non potendo arrivare a dire noi non lo abbiamo fatto, ecco. Quindi mi sembra tutta una vicenda che, tavolo o non tavolo, bisognerebbe nascondersi sotto il tavolo, certo, un po' tutti i protagonisti, bravo, e lasciare perdere.